L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, partiamo subito con il riassunto degli ultimi 7 giorni, da sabato scorso 2 maggio fino a ieri venerdì 8 maggio, un riassunto che ci porterà a parlare di tante cose diversissime tra loro. C'è la febbre suina, per esempio, che nel frattempo è diventata nuova influenza, misteri un po' delle terminologie anche di noi giornalisti. Poi naturalmente parleremo del caso della settimana, ovvero il divorzio Silvio-Veronica, e di questioni peraltro anche politicamente più rilevanti che riguardano gli immigrati e il DDL sicurezza. Cominciamo allora a riascoltare i servizi, le interviste e i commenti che sono già andati in onda nei GR di Radio 24 in questi giorni. Sabato. Gira e rigira, la febbre suina barra nuova influenza, come ormai bisogna chiamarla, arriva anche dalle nostre parti, arriva anche in Italia, ed era francamente inevitabile. Curiosamente, ma forse in realtà una spiegazione c'è, una spiegazione medica soprattutto, perché insomma questa pandemia sembra tutto fuorché micidiale. Non appena, dicevo, l'influenza sbarca nel nostro paese, gradualmente comincia a sparire dalle prime pagine dei giornali e delle televisioni. La cronaca di sabato è affidata a Raffaella Calandra, e poi invece sentiremo il servizio di Sergio Nava che ci porta negli Stati Uniti, dove Obama parla in modo perentorio dell'influenza suina e poi allarga il discorso su scala mondiale. È inesorabilmente probabile che anche in Italia si rivelasse un caso positivo. Da inesorabilmente probabile ad accertato, il ministro del welfare Maurizio Sacconi conferma che la pandemia, partita dal Messico, ha varcato il confine delle Alpi e ora si diffonderà anche in Italia. Un uomo di 50 anni rientrato da Cancun è risultato positivo alla nuova influenza ed è ricoverato all'ospedale di Massa. È però guarito e presto sarà dimesso, mentre sotto osservazione restano ancora un hostess atterrata a Malpensa e altri 12 casi. Il virus è meno aggressivo di un'influenza stagionale, ma, avverte il sottosegretario Ferruccio Fazio, si diffonderà almeno fino alla chiusura delle scuole. Noi riteniamo sarà un'inevitabile diffusione, un'evoluzione in crescita fino all'estate. La situazione è sotto controllo anche per gli antivirali, rassicura il premier Silvio Berlusconi, dopo che anche dall'Agenzia per il Farmaco avevano fatto sapere che l'Italia ha scorte per almeno 2 mesi. Il pericolo più insidioso, concordano tutti, ora è il rischio panico. This creates the potential for a pandemic, which is why we are acting quickly and aggressively. È stata una dichiarazione di guerra alla nuova influenza, quella fatta ieri dal presidente americano Barack Obama nel suo consueto messaggio radiofonico del sabato. C'è il potenziale per una pandemia, è per questo che stiamo reagendo con rapidità e in modo aggressivo, ha detto Obama. Poche ore dopo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per tutta la settimana ha tenuto il mondo col fiato in sospeso, lanciava messaggi meno drammatici. Incoraggia comunque vedere come non si sia ancora verificata una diffusione massiccia del virus al di fuori del Nord America. Il ministro della Salute messicano, José Ángel Córdova, lanciava segnali ancora più ottimistici, dimezzando quasi i casi di morte sospetta, che a livello ufficiale non raggiungono ancora i 20, e aggiungeva: il tasso di mortalità appare paragonabile a quello dell'influenza stagionale. In tutto il mondo non arrivano a 20, Italia inclusa, i paesi con pazienti ufficialmente infetti, mentre i contagiati superano i 600, quasi tutti concentrati nel continente americano. L'OMS non abbassa però la guardia e continua a considerare possibile il rischio di pandemia imminente. Oltre a Messico e Stati Uniti, anche Canada, Spagna, Germania e Gran Bretagna hanno registrato infatti casi di trasmissione da uomo a uomo. I casi di influenza in Italia aumentano giorno dopo giorno, anche se poi restiamo sull'ordine delle dita di una mano, quindi pochissimi casi, peraltro nessuno desta preoccupazione. Comunque ci sono controlli a raffica e anche qualche novità che riguarda le scuole. Ancora Raffaella Calandra. Il virus entra in fase calante mentre l'Italia conferma il secondo caso di influenza e scattano le precauzioni anche nelle scuole. Ha 25 anni ed è anche già guarito il paziente numero 2. Rientrato da una vacanza in Messico, si è presentato all'Istituto Spallanzani, ma non ha voluto farsi ricoverare, ci conferma il direttore dell'unità operativa malattie infettive, Nicola Lauria. È arrivata la conferma del nostro laboratorio che ci trovavamo di fronte a un'influenza A. L'abbiamo richiamato e gli abbiamo dato la terapia antivirale. Già quando era venuto da noi la febbre non ce l'aveva più, credo che non ci siano più problemi per lui. Isolamento e antivirali come prevenzione anche per la fidanzata, e resteranno fuori dalle scuole per almeno una settimana tutti i ragazzi di rientro da viaggi in zone a rischio o a contatto con persone contagiate. Così stabilisce una circolare del Ministero dell'Istruzione. Ma le rassicurazioni continuano ad arrivare da ogni fonte. Il virus ha superato il picco ed è in fase calante, annunciano dal Messico. E anche sul sul consumo del prosciutto, la stessa OMS garantisce che non c'è alcun rischio, ma in Egitto è stato ordinato l'abbattimento di tutti i suini con scontri tra allevatori e polizia. Noi proseguiamo con la nostra narrazione quotidiana giorno per giorno, arriviamo così al quadro generale di martedì con Roberta Pellegatta. Ha 32 anni ed era rientrato dal Messico il 30 aprile con febbre e sintomi influenzali. All'ospedale Careggi di Firenze la diagnosi influenza A. Immediata la terapia antivirale, grazie alla quale il quinto italiano contagiato ora sta bene. Concluderà oggi il ciclo di terapia e presto dovrebbe essere dimesso. Restano invece in ospedale a Roma il bambino di 11 anni e la ragazza di 16, anche se risultati positivi al virus dopo un viaggio in Messico. Anche le loro condizioni, assicurano i medici, sono in graduale miglioramento. Come misura precauzionale, la Croce Rossa Italiana ha attivato una task force negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Intanto un gruppo di 25 turisti liguri rientrati da una vacanza in Messico è stato sottoposto a quarantena come da piano ministeriale, anche se nessuno di loro accusa sintomi influenzali. Al momento nel mondo sono 1.419 i casi registrati dall'OMS in 21 stati, tra cui 30 decessi, 29 in Messico, il paese più colpito, e uno negli Stati Uniti, in Texas. Intanto in Messico, il paese che è stato più colpito di tutti e da cui poi tutto è cominciato, cerca di tornare lentamente alla normalità. Per esempio giovedì vengono riaperti i locali pubblici, quindi bar, musei, cinema, mentre anche la Federazione Calcio Nazionale permette la disputa la settimana prossima di una importante partita di Coppa Libertadores, se stiamo parlando della Champions League del Sud America, che si giocherà a Guadalajara. Ma la domanda che mi pongo e che in realtà voglio porre a tutti gli ascoltatori è questa: possiamo, dopo un paio di settimane dal caso, dall'emergenza dell'influenza suina, trarre una morale da questa storia? Insomma, è stato giusto premunirsi, è stato giusto applicare iniziative come la quarantena o il blocco delle frontiere, oppure siamo di fronte ad una grande bufala che peraltro ha favorito le case farmaceutiche? Sentiamo se a questa domanda risponde la controcopertina di ieri mattina Anna Migliorati. Tanto clamore per nulla? Il Messico torna alla normalità, l'Italia revoca la quarantena, l'influenza suina è già un ricordo? Attenzione, una pandemia è, stando alla sua etimologia, un'epidemia pandemos, di tutto il popolo. Scientificamente significa diffusa in più aree geografiche del mondo e con un alto numero di casi gravi. Lo è stata la terribile spagnola del 1918, per intendersi, ma il mondo di pandemie ne ha conosciute altre e ne attende altre. Per questo esiste, a livello internazionale, un protocollo secondo cui agire quando nella specie umana si presenta un virus nuovo, di fronte al quale nessuno di noi ha difese. È quello secondo cui ha operato l'OMS. Altra cosa è l'allarme mediatico. Anche questo, o meglio, l'informazione, non l'allarmismo, ha un suo ruolo. Fatto sta che oggi i virologi tirano un sospiro di sollievo. Quella che ormai è chiamata influenza A non sembra così terribile come appariva, ma non cambia molto. La dottoressa Maria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia dello Spallanzani. È un successo che si siano comprese velocemente le reali dimensioni del fenomeno. Però il fatto che il Messico abbia 20 morti o 2.000 non cambia. Questa non è legata alla gravità dell'infezione, bensì alla presenza della trasmissione da uomo a uomo in più paesi. Allora, per chiudere questa prima parte dell'ottavo giorno, aggiorniamo un po' i conti sulla nuova influenza, che, ci tengo a precisare, non ci fa ancora paura. Ieri sono spuntati altri due casi in Italia, si tratta di una donna di 48 anni di Como e un altro musicista di 40 a Pavia. Tornavano una dal Messico e l'altro da New York. L'ottavo giorno. Domenica. Adesso ci trasferiamo in Afghanistan, che purtroppo finisce all'improvviso al centro della nostra attenzione, per nostra intendo di noi giornalisti e quindi anche di Radio 24 in questa settimana. Insomma, ogni tanto ci scordiamo dell'Afghanistan, poi fatti di cronaca, fatti tragici ci riportano al centro dell'attenzione, dicevo, la martoriata regione asiatica. Infatti domenica, nel modo peggiore, ci ricordiamo che ci sono dei nostri soldati impegnati in Afghanistan, ufficialmente in una missione di pace. L'Afghanistan peraltro è il pantano vero degli americani, altro che Iraq, tant'è vero che c'è chi già paragona questo stato, questa nazione dell'Afghanistan, al Vietnam di tanti anni fa. Ma ricordiamo i tragici fatti di Herat con Sergio Nava. Il comandante nostro, il generale Castellano, chiaramente ha subito avuto un incontro con il governatore locale, stiamo prendendo contatti con la famiglia per vedere, qualora ce ne fosse bisogno di qualcosa, di poter essere d'aiuto in qualunque modo possibile. Così il maggiore Marco Amoriello, portavoce del nostro contingente in Afghanistan, spiega a Radio 24 le mosse dei nostri militari dopo l'incidente conclusosi con la morte di una bambina di 13 anni nei pressi di Herat. Forse una tragica fatalità. Tutto si è svolto nell'arco di pochi secondi, quando la Toyota Corolla bianca, con a bordo la bambina, lo zio, la madre e un'altra donna, tutti diretti a un matrimonio, ha incrociato la pattuglia di militari italiani appartenenti al gruppo OMLT. Temendo un attentato, la pattuglia ha adottato le procedure di segnalazione previste, ma la Corolla ha continuato a procedere a forte velocità fino a quando il mitragliere ha fatto fuoco. Pioveva e la visibilità era molto scarsa. All'improvviso ho visto delle luci ed è apparso un convoglio, racconterà più tardi lo zio della bambina, che non riesce a cancellare dalla mente il ricordo del volto della nipote sfigurato dai proiettili. Resta un punto interrogativo. Le foto delle agenzie mostrano il lunotto posteriore della Toyota con i vetri infranti, come se i colpi fossero stati esplosi solo dopo il passaggio della macchina. Perché? Cercheranno di chiarirlo due inchieste, la prima della Procura Militare di Roma, la seconda della Polizia Afghana. Sgomento e dolore sono stati espressi dai ministri degli esteri Frattini e della difesa la Russa. E su questa storia bruttissima parla giovedì alla Camera il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, che non ha escluso l'errore dei nostri soldati. Quindi, al di là delle analogie, che peraltro fanno correre un brivido lungo la schiena, con la vicenda di diversi anni fa di Calipari e la sgrena in Iraq, restano molti dubbi di fronte a questa terribile vicenda, che peraltro è costata la vita ad una bambina di 13 anni. Problemi, polemiche e purtroppo morti riguardano anche e soprattutto gli americani in Afghanistan. Intanto c'è il Pentagono che ricorda in questi giorni che l'anno prossimo, nel 2010, il costo della guerra in Afghanistan sarà superiore a quella in Iraq. E invece nella notte tra lunedì e martedì ci sono bombardamenti massicci nella provincia di Farah, sempre da parte degli americani, che provocano addirittura un centinaio di morti civili, una strage la più grave da quando gli americani sono in guerra nel 2001 in Afghanistan. Bilancio dunque gravissimo, e sulla situazione in Afghanistan sentiamo adesso il commento di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. L'Afghanistan si presenta da oltre un secolo esattamente come tutti gli eserciti temono, una trappola mortale che inghiotta le vite dei soldati e di migliaia di afghani. L'esplosione di violenza di questi giorni segue tragicamente le statistiche. Il 70% delle vittime sono civili non combattenti, il 40% muore in attacchi aerei americani o in scontri con le truppe degli Stati Uniti o della NATO. Gli altri sono fatti fuori dai talebani. Le statistiche però non raccontano tutto. Non dicono, per esempio, che sotto la bandiera dell'Islam e della lotta alla modernità gli afghani da sempre si coalizzano contro gli invasori, che siano inglesi, russi, americani, oppure contro altri afghani riformatori. Lo stesso Karzai, che si ricandida per le elezioni di agosto, è partito come un modernista e da tempo, per raccogliere consensi, si è assuefatto a una visione puritana e reazionaria. Barack Obama, che ieri ha ricevuto a Washington sia Karzai che il presidente pakistano Zardari, a capo di un paese con l'atomica, è consapevole che la trappola afghana è già scattata da un pezzo e i corpi mutilati di donne e bambini nei bombardamenti americani sono il tipo di propaganda che la guerriglia talebana aspetta. Ai talebani non importa vincere, ma rendere duro, sempre più duro e insopportabile agli stranieri restare in Afghanistan. Sicuramente di Afghanistan, che peraltro tra poche settimane va al voto, avranno parlato anche a Washington ieri Frattini e Clinton, il nostro ministro degli esteri e il segretario di Stato americano. Però invece giovedì la notizia importante viene sempre dall'Afghanistan, dove i talebani addirittura si scagliano contro il Papa, che nel frattempo da ieri è in visita in Terra Santa, un lungo viaggio che lo porta in Giordania e poi in Israele. Sentiamo il servizio di Adib Fatali. No ai tentativi di proselitismo in Afghanistan. L'appello, seguito da esplicite minacce, è stato lanciato dai talibani al Papa Benedetto XVI alla vigilia del suo viaggio in Medio Oriente. Dopo le immagini della TV Al Jazeera, che mostrava soldati americani mentre distribuivano Bibbie tradotte in lingua locale, gli studenti coranici hanno diffuso in rete un comunicato che recita così: rivolgiamo un appello alla massima autorità religiosa cristiana, Papa Benedetto XVI, affinché impedisca concretamente le azioni stupide e irresponsabili di crociati insensibili. Chiediamo, ecco la minaccia, di non aspettare le gravi conseguenze di una reazione causata dalla sensibilità offesa dei fedeli. L'esercito USA, che respinge ogni coinvolgimento, è accusato di coprire le organizzazioni religiose americane che approfitterebbero della difficile situazione economica degli afghani per convertirli alla fede di Cristo. Lunedì. Fiat e Marchionne sono due nomi che al giorno d'oggi in Italia godono di una certa popolarità, un fatto che potrebbe sorprendere pensando al recente passato, ma insomma direi che Marchionne e le sue iniziative probabilmente giustificano questa stima per la nostra principale casa automobilistica. Lunedì, chiusa la partita, almeno il primo tempo di questa partita con Chrysler negli Stati Uniti, Marchionne vola a Berlino per un'altra sfida complicata, ma direi non impossibile. Quella per l'acquisto di Opel ci aggiorna sulla prima giornata in Germania lunedì da Francoforte, Beda Romano. La partita di Fiat in Germania è appena iniziata, ma ieri i primi colloqui dell'amministratore delegato Sergio Marchionne a Berlino sono stati positivi. Il piano di Fiat, che pur prevede la chiusura di uno dei quattro stabilimenti di Opel in Germania, è stato definito interessante dal ministro dell'economia Karl Theodor zu Guttenberg. Il governo federale ha ribadito che intende valutare tutte le proposte per la filiale europea di General Motors con cura e attenzione. I sindacati restano scettici, così come il Partito Socialdemocratico. Tuttavia, l'accordo tra Chrysler e Fiat ha rafforzato la mano della casa automobilistica in Germania. L'intesa euro-americana rappresenta un tassello importante nell'attesa ristrutturazione del mercato automobilistico mondiale. Per l'establishment politico tedesco è diventato indubbiamente più difficile escludere Opel da questa strategia. La via per arrivare all'acquisizione di Opel da parte di Fiat è lastricata di mille difficoltà, il mosaico è decisamente complesso, per esempio non tutti in Germania tifano per Fiat, tra parentesi anche in Germania, sembra un po' un ritornello della nostra trasmissione, c'è una campagna elettorale alle porte e questo potrebbe condizionare le scelte di alcune parti politiche. Poi naturalmente in Germania bisogna fare i conti con i sindacati tedeschi che per definizione sono coriacei e combattivi. Sentiamo il punto della situazione di mercoledì mattina firmato da Andrea Malan. La trattativa per le nozze tra Fiat e Opel si trasforma in un balletto di cifre. Non chiuderemo impianti, dichiara Sergio Marchionne alla Bild. Ci saranno 10.000 tagli, afferma invece Klaus Franz, il potente capo del consiglio di fabbrica della Opel. E la Frankfurter Allgemeine Zeitung pubblica uno studio attribuito a Fiat, secondo cui gli stabilimenti chiusi sarebbero addirittura 10 entro il 2016, di cui due in Italia, Pomigliano e Termini Imerese. Non l'abbiamo preparato noi, dicono a Torino, ma ancor prima del problema dei finanziamenti dell'operazione e delle future difficoltà di integrare due aziende così diverse, è il tema dell'occupazione a restare al centro del dibattito. In un anno elettorale i politici tedeschi non possono permettersi di accettare tagli troppo pesanti in patria, ma Marchionne, che fin dall'arrivo in Fiat ha sempre scommesso anche sul rapporto con i sindacati italiani, non può certo tenere aperte tutte le fabbriche tedesche per chiuderne in Italia. Se si aggiunge che sull'altra sponda dell'Atlantico i creditori hanno dato battaglia in tribunale sulla ristrutturazione di Chrysler, il manager italo-canadese dovrà davvero meritarsi la fama di Superman. Contemporaneamente in questi giorni escono anche i dati sulle vendite di automobili in aprile. La Fiat non può certo ridere, ma direi che altri piangono lacrime amarissime. Da Torino fa due conti Marco Ferrando. Bene gli ordini e male le vendite auto ad aprile, un mese in cui a brillare soprattutto il gruppo Fiat, che perde terreno rispetto al 2008 ma meno della media e dunque porta la sua quota al 35,3%, la più alta dal novembre 2001. Per il mese che si è chiuso giovedì scorso gli esperti avevano previsto una sostanziale conferma dei livelli di aprile 2008. Invece, dai dati distribuiti ieri sera dal Ministero dei Trasporti, è emersa un'inattesa flessione del 7,5%. A prima vista sembrerebbe già esaurito l'effetto ecoincentivi, ma incidere in misura determinante sulle immatricolazioni sono stati i piazzali vuoti delle principali case automobilistiche, che faticano a tenere il passo di un mercato che comincia a dare segnali di ripresa in diversi paesi d'Europa. Non a caso gli ordini continuano a crescere, più 13% ad aprile, un dato che fa guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Tornando ai singoli marchi, bene Ford, più 38,2%, e tracollo di Toyota, meno 50%. L'auto più venduta è stata la Grande Punto, davanti a Panda e Fiesta. E mentre si parla sempre con maggiore insistenza della possibilità che Marchionne sia amministratore delegato anche di Chrysler, non solo di Fiat, giovedì è una giornata difficile per il marchio italiano. Tutte le difficoltà, in particolare sul versante di casa nostra, ce le riassume questo servizio di Paolo Piacenza. Per la Fiat di Sergio Marchione, dopo i giorni dei rallies in borsa e dei complimenti, arriva la giornata di passione. Si parte con le indiscrezioni del quotidiano tedesco Handelsblatt, secondo il quale nel piano presentato al governo di Berlino si prevede, dopo l'ingresso in Opel, la chiusura di alcuni stabilimenti in Europa, tra cui uno nel nord e l'altro nel sud Italia. Il no comment del Lingotto non rassicura e allora il ministro dello sviluppo economico Scajola scrive al presidente Fiat Montezemolo e alla D. Marchionne per convocarli a un incontro, nella certezza precisa che l'eccellenza degli stabilimenti italiani continui ad essere assicurata. Passano poche ore e in borsa il titolo vira in negativo, a fine seduta perde il 5,20%. Più tardi un'altra indiscrezione riferita dall'agenzia Picom a fonti sindacali indica negli stabilimenti meridionali di Pomigliano e Termini quelli a rischio chiusura. Giorgia Iraudo, segretario della Fion di Torino, reagisce così. È giunto il momento che la Fiat venga chiamata alle sue responsabilità di fronte ai suoi lavoratori italiani e al paese. Quindi la Fiat ha la possibilità di chiarire, poi scopriremo quale piano è vero, quale non è vero, per capirci. Anche ieri per Marchionne è stata una giornata ricca di incontri in Germania, ha visto in particolare il leader del Land tedesco della Renania-Palatinato. Immagino che sul tavolo ci fosse il destino dello stabilimento di Kaiserslautern. I tedeschi, devo dire, hanno manifestato delle perplessità, ma insomma Marchionne rimane fiducioso e spera di chiudere tutto il discorso Opel entro la fine del mese. L'ottavo giorno. Martedì. E veniamo alla storia che più ha appassionato gli italiani in questi giorni. Giornali, giornalisti, TV, insomma, ha inchiodato peraltro milioni di persone davanti al teleschermo. La storia che tra l'altro ha dettato l'agenda politica più delle altre, più anche di questioni importanti e significative legate per esempio al tema della sicurezza e degli immigrati. Sto parlando naturalmente del feuilleton tra Veronica e Silvio, la coppia già aveva fatto parlare di sé la settimana scorsa, c'era stata Veronica che si era lamentata dei criteri di scelta, direi più orientati su veline e starlette varie piuttosto che altri criteri per le liste alle europee del Partito delle Libertà. E aveva parlato, ricordate, di Cerpame, insomma ha manifestato un po' tutta la sua amarezza per la vicenda. Ma domenica mattina Repubblica e La Stampa, due tra i più importanti giornali italiani, riportano una nuova notizia che spareglia di nuovo le carte, direi un nuovo colpo di scena che forse cambia la situazione. Infatti la moglie di Berlusconi, Veronica, annuncia di volere il divorzio. Sentiamo allora su questo prima Vincenzo Miglietta e poi il commento di Giardo Pelosi, che tra l'altro riflette soprattutto sulle possibili ripercussioni elettorali, ma ancora di più patrimoniali, di tutta questa storia. Costretta a fare questo passo, spiega Veronica Lario, una vicenda personale che mi addolora, commenta il Cavaliere. È una vera e propria accelerazione quella che la vicenda subisce. Ieri, nel giro di poche ore, prima le anticipazioni pubblicate da Repubblica e Stampa, poi poco dopo le 11 il lancio d'agenzia che recita: la signora Veronica Lario, interpellata dall'ANSA, ha confermato la sua intenzione di divorziare dal marito Silvio Berlusconi. È stato confermato, spiega ancora il comunicato, il contatto già avviato con l'avvocato per le pratiche di separazione. Poche righe dunque, nero su bianco, che chiudono di fatto uno dei matrimoni più in vista del paese. Dal premier e dal suo entourage per circa due ore il silenzio assoluto, poi una volta arrivata ad Arcore il commento del presidente del consiglio: è una vicenda personale che mi addolora, che rientra nella dimensione privata, dice Berlusconi, e di cui mi pare doveroso non parlare. A spingere la Lario verso il divorzio, quelle che sono state giudicate le classiche gocce che fanno traboccare il vaso già colmo, prima le indiscrezioni sulla presenza delle cosiddette veline nelle liste per le europee, poi la partecipazione del premier al compleanno di Noemi, la diciottenne di Casoria che lo chiamerebbe papi. Dopo 30 anni avrebbe confidato la Lario al suo avvocato: chiudo il sipario, ma voglio farlo da persona comune e per bene, evitando lo scontro. Diciamolo pure, era un'altra Italia, migliore, peggiore, è sempre difficile dirlo, quella in bianco e nero degli anni 50 e 60, fatta di leadership politiche che non contemplavano neppure l'esistenza delle first ladies. Figure nell'ombra, angeli del focolare, tranne qualche scandalo mal sopportato come quello di Togliatti e Nilde Iotti. L'esempio per tutti resta la signora Livia, moglie di Giulio Andreotti, icona per discrezione e silenzio. Ma poco, pochissimo è trapelato per anni anche sugli altri nomi della nomenclatura DC e non solo quella. Non sono neppure mancate separazioni eccellenti nel passato, ma ad esempio che Francesco Cossiga si fosse rivolto alla Sacra Rota per ufficializzare la separazione della moglie lo si è saputo dopo anni e casualmente. ma era appunto un'altra Italia, un'altra politica. Capire oggi con quale Italia abbiamo a che fare e soprattutto se questa storia del divorzio chiesto dalla moglie del premier Silvio Berlusconi, Veronica, al secolo Miriam Bartolini, dopo 29 anni di rapporto, possa produrre effetti politici e di che tipo, resta un mistero ancora da decifrare. Sullo sfondo questa volta ci sono interessi concreti, un patrimonio valutato in 5 miliardi di euro che i tre figli di Veronica, Barbara, Eleonora e Luigi si dovranno dividere con gli altri due avuti dalla prima moglie, Pier Silvio e Marina. C'è poi il maschilismo strisciante, ma anche un partito, il PDL, che dovrebbe rappresentare una fascia importante del mondo cattolico, senza contare che Veronica, editrice del Foglio, per le sue posizioni anticonformiste ha sempre fatto da spalla discreta al marito imperatore. Per dirla tutta, è solo l'inizio di un'altra grande storia. Martedì è il gran giorno dello show in TV di Berlusconi, che va a dire la sua porta a porta, che tra l'altro Francesco Merlo su Repubblica ha ribattezzato per l'occasione Letto a Letto. Mentre si discute sull'effetto possibile al voto alle europee di tra poche settimane del divorzio, mentre tra l'altro l'Avvenire, il giornale dei Vescovi, chiede più sobrietà al Premier, l'interessato, cioè Berlusconi, va appunto a dire la sua in televisione e fa un record di ascolti. Tra l'altro record di ascolti si registrano anche giovedì con la trasmissione Anno Zero di Santoro. Naturalmente il tema è lo stesso, il divorzio tra Veronica e Berlusconi, però l'argomento è trattato in modo diversissimo, con toni e accuse ben diversi. Sentiamo invece Andrea Viali, che era negli studi Rai a seguire proprio la puntata di Porta a Porta con Berlusconi ospite. Sceglie il salotto televisivo di Bruno Vespa Silvio Berlusconi per parlare della sua vicenda familiare e del divorzio chiesto pubblicamente dalla moglie. Veronica è caduta in trappola credendo alle menzogne messe in circolazione dalla sinistra e dalla sua stampa, attacca il premier dagli studi di Porta a Porta. Si vede che la sinistra e la sua stampa non riesce ad accettare la popolarità, che è al 75%, cioè a 3 italiani su 4, è ridotta, come vediamo, e quindi ha cominciato soltanto con gli attacchi personali fondati sulla calunnia. Non ci sono mai state veline nelle liste del PDL, spiega poi Berlusconi, che sulla sua partecipazione alla festa della 18enne Noemi dice: assurdo pensare che io possa frequentare minorenni. Ma se ci fosse stato qualcosa, che dico, di piccante, di riservato, di men che pulito nel rapporto tra il Presidente del Consiglio e una ragazza minore di 18 anni, ma il Presidente del Consiglio sarebbe stato così pazzo da andare in una situazione di questo genere pubblica? Veronica ammetta di essersi sbagliata, solo così potremmo restare assieme, ribadisce poi Berlusconi dispiaciuto perché anche i suoi figli sono stati tirati in ballo in questa vicenda. Mercoledì. Lasciamo gli affari di cuore e le ripercussioni politiche del Premier, dedichiamoci allo sport, che regala tantissime emozioni, soprattutto grazie alla Champions League di calcio a metà settimana. La sfida più incerta e incredibile poi nell'esito finale di queste semifinali di Champions si gioca mercoledì a Londra, riguarda la sfida attesissima tra Chelsea e Barcellona. Sentiamo come va a finire con Carlo Genta. Roma il 27 maggio vedrà Barcellona, Manchester United con la Champions League in palio. Ma grande è stata la fortuna dei Blaugrana ieri sera a Stamford Bridge. Dopo lo 0-0 dell'andata, un grande Chelsea è passato in vantaggio dopo 9 minuti con un magnifico sinistro di Essien e ha dominato la partita, andando in più occasioni vicinissimo al gol del raddoppio. Almeno un paio di chiari rigori non concessi dall'arbitro Overbro ai Blues e al secondo minuto di recupero il pareggio beffa di Iniesta e la rabbia selvaggia del Chelsea. Ma sentiamo l'allenatore finalista Pep Guardiola. Non so, devo pensare un po' alla sensazione che ce l'ho adesso. Avevo venuto qua a prendere la palla, dall'inizio se tutto il mondo ha potuto vedere che abbiamo andato a cercare l'occasione del gol, poi il gol di Sien è stato spettacolare e poi loro tutto indietro è difficile. Una squadra fortissima fisicamente dove si aiutano tanto, è difficile trovare qualche situazione di gol. Ha avuto poche, ma alla fine diciamo che la costanza, il voler andare avanti e non mollare mai, lo abbiamo alla fine riuscito. Sempre per arrivare alla finale di una competizione come questa così importante sembra avere un po' di piccolissima fortuna, noi l'abbiamo avuto. Se invece vogliamo parlare di calcio italiano, non ci resta che pensare e accontentarci di guardare al giardino di casa nostra, la Serie A. Infatti sabato scorso l'Inter, in testa dall'inizio del campionato e ormai candidata allo scudetto, nell'anticipo doveva reagire però alla sconfitta pesante, soprattutto per il gioco espresso contro il Napoli 7 giorni prima, e soprattutto deve respingere le velleità di scudetto del Milan. Sentiamo la cronaca di Giovanni Capuano. A parole l'Inter non temeva la rimonta rossonera, ma che i nervi fossero a fior di pelle lo dimostra lo scambio prolungato e polemico tra Ibrahimovic e i suoi tifosi. Un'ora di nulla da parte dello svedese, poi in 12 minuti la folgore dell'1-0 imprendibile per Muslera e l'assist per il raddoppio di Muntari. 2-0 è partita risolta, ma quel dito portato ostentatamente sulle labbra per zittire i fischi e poi un gesto di scherno tradiscono il nervosismo di una squadra che sta faticando a chiudere di corsa la stagione. Contro la Lazio i nerazzurri sono riusciti a imporre il ritmo solo a tratti, possesso palla e poche occasioni fino all'1-2 decisivo. Mourinho costretto a gettare nella mischia anche Crespo per dare un po' di peso all'attacco. Il 2-0 vale 3 punti di platino, calcolatrice alla mano ne mancano solo 6 per lo scudetto e 3 punti pesanti sono anche quelli conquistati dalla Regina Bologna, 2-1 che vale la speranza di salvarsi. Domenica si completa il quadro della giornata di calcio, il Milan vince a Catania e rimane a 7 punti dall'Inter, anche se a 4 giornate dalla fine sono davvero tanti. Invece la Juve pareggia all'ultimo minuto, viene raggiunta in casa dal Lecce, quindi questo innesca tutta una serie di polemiche e soprattutto una bufera su Ranieri, che ormai è allenatore a tempo sulla panchina della Juventus. Torniamo invece a mercoledì, perché a Roma è anche giorno delle elezioni del presidente del CONI. Andrea Viale. È una scelta nel segno della continuità quella presa oggi dal CONI. L'assemblea elettiva ha confermato Gianni Petrucci alla guida del Comitato Olimpico anche per il prossimo quadriennio. Presidente dal 1999 è arrivato ora al suo quarto mandato, Petrucci ha ottenuto 55 preferenze contro le 24 del suo sfidante, il presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti. 3 le priorità indicate da Petrucci, al quale spetterà il compito di guidare lo sport italiano verso le Olimpiadi di Londra 2012. Quello della scuola insieme al doping e il finanziamento automatico sono 3 obiettivi che dobbiamo raggiungere, altrimenti al termine dei 4 anni per me sarà un fallimento. L'assemblea ha rinnovato anche la giunta nazionale del CONI, fra i nuovi ingressi quello del presidente della Federcalcio Giancarlo Abete in quota dirigenti, mentre a rappresentare gli atleti sono stati scelti il canoista Antonio Rossi e la schermitrice Giovanna Trillini. E adesso tuffiamoci nel clima del Giro d'Italia di ciclismo che comincia in queste ore a Venezia. Naturalmente il personaggio più atteso nel bene e nel male è Lance Armstrong, che ritorna all'attività dopo tanti anni. Armstrong ha una carriera naturalmente straordinaria alle spalle, con 7 Tour de France vinti. È stato un campione capace di recuperi miracolosi da un cancro, però anche è stato molto discusso per i sospetti, in realtà mai sopiti, di doping. Sentiamo però la vigilia del Giro che cosa dice a Dario Ceccarelli Angelo Zomegnan, che è il direttore proprio del Giro d'Italia. In qualche modo Armstrong vuol lasciare il segno, si muove come se fosse una star, secondo me solo in questo momento campione universale, un worldwide champion a mio giudizio. Certo, non fosse caduto e non si fosse spezzato una clavicola 40 giorni prima di prendere parte al Giro d'Italia, probabilmente avrebbe potuto giocare delle carte migliori da Venezia a Roma. Ma Lance Armstrong è un campione, un uomo che ci ha abituato a 1000 miracoli e non è detto che non ne faccia uno in più, confermandosi protagonista anche in bicicletta e non soltanto giù dalla bicicletta. L'ottavo giorno. Giovedì. Gli occhi, almeno di chi si occupa di economia, sono puntati in particolare sulla Banca Centrale Europea. La domanda che viene rivolta alla Banca Centrale Europea, in attesa naturalmente di una risposta, è sempre la stessa, riguarda i tassi di interesse. Che fare? Tagliarli o non tagliarli? Sentiamo allora che cosa decide giovedì la Banca Centrale Europea con il servizio da Francoforte di Beda Romano. La Banca Centrale Europea ha compiuto ieri il primo passo sulla strada dell'allentamento quantitativo. L'Istituto Monetario ha deciso che acquisterà obbligazioni garantite sul mercato per facilitare i flussi di credito dal settore bancario all'economia reale. La BCE segue così di qualche mese le scelte della Banca d'Inghilterra e della Riserva Federale. La scelta giunge dopo mesi di discussioni all'interno del Consiglio Direttivo sull'opportunità o meno di seguire una strada innovativa mai percorsa prima. La scelta, sommata alle decisioni di ridurre il costo del denaro all'1%, lascia intendere che la situazione economica è ancora molto incerta e che i rischi di deflazione sono sempre in agguato. La scelta della BCE non è naturalmente casuale, ha una sua logica ferrea, perché insomma la crisi c'è e si fa sentire pesantemente, e non a caso soltanto pochi giorni prima, lunedì, quindi ad inizio settimana, erano uscite le stime sul PIL europeo e in particolare del nostro paese, dell'Italia, e c'è poco da stare allegri. Sentiamo Sergio Nava. The worst moments of the recession. Tutti i ministri europei sono d'accordo nell'affermare che ci troviamo nel momento peggiore della recessione, ma osserviamo segnali positivi negli Stati Uniti, in Asia e anche in Europa. Così il commissario europeo agli affari economico-monetari Joachim Almunia ha riassunto ieri sera il senso di una giornata fatta di troppi segni meno, sintomo per Bruxelles di una grave e profonda recessione, la peggiore dal dopoguerra. I dati parlano da soli, le stime aggiornate prevedono un PIL in calo in Europa del 4% quest'anno e ancora sotto zero, seppur di un decimo il prossimo. L'Italia perderà il 4,4% nel 2009 e dovrebbe registrare una crescita anemica di un solo decimale nel 2010, dati leggermente più negativi rispetto a quelli del governo. Anche il rapporto deficit-PIL fa registrare consistenti sforamenti dei parametri di Maastricht. Per l'Italia meno 4,5% quest'anno e meno 4,8% il prossimo, con il rischio di una procedura di infrazione. Bel paese sempre al top per il debito pubblico in Europa, quest'anno toccherà il 113% del PIL, ma nell'Unione suona pure il campanello d'allarme della disoccupazione. Nous allons vers une crise sociale. Al punto che il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker parla apertamente di rischi per la tenuta della coesione sociale e si appella alle imprese chiedendo di evitare licenziamenti di massa. In questi due anni 8 milioni e mezzo di posti di lavoro andranno persi in Europa, nel 2010 oltre un cittadino su 10 potrebbe essere disoccupato. In Italia disoccupazione all'8,8% quest'anno e al 9,4% il prossimo. Non abbiamo il tempo qui per ritornare sulle fibrillazioni della borsa in questa settimana, ma preferiamo ricordare invece l'iniziativa del ministro del welfare Sacconi presentata mercoledì. Il servizio è di Paolo Piacenza. Per ora è un documento di intenti in cui non ci sono ipotesi di modifica dell'articolo 18 o delle pensioni, ma l'obiettivo del libro bianco del welfare presentato ieri dal ministro Sacconi è, come dice il segretario della UIL Angeletti, ambizioso. Rifondare le regole dello Stato sociale del lavoro, puntando più su un efficiente sistema di relazioni industriali che sulle protezioni della norma di legge. Sacconi spiega così la scelta prudenziale del governo. In un tempo di crisi come quello che stiamo vivendo, non possono essere all'ordine del giorno né le riforme degli ammortizzatori sociali, che fanno compiere un salto, una soluzione di continuità rispetto a quelli di cui disponiamo, né l'articolo 18. Non può essere all'ordine del giorno in un tempo di crisi. E quindi è molto importante evitare riforme delle pensioni, ancora non di meno. Nel testo si indica come obiettivo la fissazione di assetti regolatori e statuti normativi specifici per tipologia di settore produttivo, ma anche territorialmente diversificati, fermo restando, si aggiunge, uno standard minimo protettivo. Ma Sacconi mette le mani avanti. Non è il ritorno delle gabbie salariali. Venerdì. E chiudiamo questa nostra settimana con la politica italiana, naturalmente al netto della questione divorzio Veronica Silvio, di cui abbiamo già ampiamente parlato in precedenza. Il centro nevralgico della battaglia tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza in questi giorni, sicuramente la discussione alla Camera del disegno di legge sulla sicurezza. Attorno a questo DDL sicurezza si accende prima la polemica sulla cosiddetta norma dei presidi spia, che di fatto obbliga proprio i presidi a denunciare gli studenti stranieri figli di irregolari, perché per iscriversi a scuola il provvedimento prevede il permesso, l'obbligo di presentare il permesso di soggiorno. Fini denuncia l'incostituzionalità della norma, che di fatto poi viene stralciata. Poi ci sono polemiche attorno alle norme anti-racket, che prima spariscono rispetto al testo votato al Senato, poi ritornano nella forma appunto in cui erano state votate a Palazzo Madama. Alla fine la maggioranza trova un compromesso, anche se poi il voto finale viene rimandato di una settimana. Raffaella Calandra. L'ultima carta Maroni la gioca prospettando in caso di rinvio l'uscita dai centri di espulsione di 250 clandestini. Ma ottenuto il via libera alla fiducia, la Lega non riesce ad evitare lo slittamento di una settimana del voto sul disegno di legge sicurezza, mentre l'opposizione evoca lo spettro di nuove leggi razziali. Sui tre maxi emendamenti del pacchetto il governo dunque porrà la fiducia allargata anche al DDL sulle intercettazioni per accontentare sia le richieste richieste del Carroccio che della vecchia Forza Italia. Una decisione maturata in Consiglio dei Ministri in una giornata in cui l'esecutivo è stato battuto con 7 franchi tiratori sulla ratifica del trattato con la banca dati del DNA. Spero che, passate le turbolenze per le liste, il clima si rassereni, confida il ministro dell'Interno Maroni. Sappiamo che ci sono sensibilità diverse anche dentro la maggioranza, però questa è la linea del governo, di grande rigore nel contrasto dell'immigrazione clandestina senza cedimenti. Ma contro le ronde, il reato di immigrazione, anche un riformista deve essere duro, sbotta il segretario del PD Dario Franceschini. Non è moralmente giusto strumentalizzare la paura e la domanda di sicurezza, non possono essere la chiave per tornare 70 anni dopo alle leggi razziali del nostro paese. Parole che innalzano ulteriormente lo scontro. E adesso vi vorrei mettere in fila due questioni che sottopone alla vostra attenzione, due questioni che tengono banco negli ultimi giorni della settimana, che in qualche modo si intrecciano poi al tema generale della sicurezza, in particolare riguardano la declinazione della sicurezza legata agli immigrati e alla paura dello straniero. Una di queste due notizie viene dal mare, l'altra invece direttamente dal centro di Milano. Sentiamo allora prima Elisabetta Fiorito e poi Raffaella Calandra. Respinti al mittente senza nemmeno toccare terra, 227 clandestini vengono imbarcati su navi italiane in acque internazionali e riaccompagnati a Tripoli, il porto di provenienza. Un accordo tra governo italiano e leader libico Gheddafi, esulta il ministro degli interni Roberto Maroni. Questa operazione, che per la prima volta afferma il principio del respingimento, non del rimpatrio, del respingimento nelle acque del Mediterraneo verso il paese di provenienza, di partenza, e non verso il paese di origine, segna davvero, io penso, una svolta sotto molti aspetti. L'accordo, secondo Maroni, potrebbe diventare un modello per l'Unione Europea, anche perché d'ora in poi sarà sempre così. L'opposizione protesta per il Partito Democratico, la svolta c'è stata e contro i diritti umani. Ci sono ancora su molti trame autobus i cartellini con scritto "questo posto è riservato alle donne incinte o ai reduci di guerra", potremmo sostituire nella dicitura "i milanesi superstiti". I milanesi da una parte e tutti gli altri dall'altra, posti riservati sugli autobus, come avveniva nell'America dell'apartheid ai tempi di Rose Park. Anche se è una provocazione, ci sono i fantasmi di momenti bui della storia dietro le parole di Matteo Salvini, leghista doc. Il candidato del Carroccio punta sulla sicurezza sui mezzi, prima suggerisce carrozze per sole donne, poi si spinge fino ai posti riservati ai milanesi d'origine. E tutto questo nel bel mezzo dello scontro sul DDL sicurezza, dà fuoco a nuove polveri. È una proposta che conferma le critiche al pacchetto, accostato alle leggi razziali del 38, rincara il segretario del PD Dario Franceschini. Una cosa è doverosamente combattere tutto ciò di criminale che c'è legato all'immigrazione clandestina. Un'altra cosa è fare pagare a chi non c'entra le conseguenze di una legge sbagliata. Così denuncia il PD, secondo il DDL sicurezza, se una donna senza passaporto partorisce non potrà neanche riconoscere il figlio. E anche ieri si è consumato un duro scontro su questo grandissimo tema degli immigrati che ci accompagnerà sicuramente per i prossimi decenni. Altri 77 clandestini intanto sono stati rimpatriati a Tripoli, ma su questo la Chiesa è intervenuta duramente, si è dichiarata contraria alle iniziative del governo. E tra l'altro la Chiesa si è detta anche contraria alla proposta di Salvini delle carrozze del metro riservate ai milanesi. Su questo poi Berlusconi ha cercato di sdrammatizzare, ha detto che si è trattato di una semplice battuta. Più duro Fini, che ormai si distingue in tante cose da Berlusconi, che ha parlato testualmente di proposta lesiva della Costituzione. Chiudiamo con la politica ricordando altri due fatti di ieri. Intanto, ad un anno esatto dall'insediamento del governo Berlusconi, era l'8 maggio del 2008, ieri il Consiglio dei Ministri ha nominato 5 nuovi viceministri, mentre la Brambilla è diventato nuovo ministro del turismo. E poi una citazione per Gianni Baget Bozzo, che si è spento a Genova a 84 anni. Sacerdote, ma anche una lunga attività politica alle spalle. Europarlamentare, poi è stato vicino a Craxi e a Berlusconi negli ultimi anni della sua vita. Ci manca soltanto l'ottava notizia della settimana, che ci permette di sottolineare che mercoledì è stato un mese esatto dal terremoto in Abruzzo. Dall'Aquila il servizio dell'inviato Stefano Totoro. Un mese è poco, pochissimo per rimuovere il ricordo di quei 30 secondi che hanno distrutto quasi 300 vite e un'intera città. Mi sono vista a casa quasi crollare addosso con i calcinacci in testa e l'aver capito subito di aver perso una casa alla quale io tenevo molto. Pensavo che ormai era la fine. Ho cercato di scappare ma non ce l'ho fatta. Che mi tratteneva. La seconda scossa stavo in macchina fuori, la macchina mi traballava, sembrava che era una lavastoviglie, una lavatrice. Un mese è solo l'inizio, pensano fra le tende e gli sfollati, oltre 60.000. Non ce la faccio più qua. La mia città ormai è finita e passeranno molti anni, nonostante quello che si dice sono sicura che L'Aquila è una città finita. Abbiamo finito anche per oggi. Ottavo giorno @radio24.it è la nostra mail per chi ci vuole scrivere. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.